Storie italiane. La città della fortuna. Rupert era considerato un giovane saggio e intelligente. Dicevano che non c'era nessuno più coraggioso o più intelligente di lui per 10 villaggi attorno. Un giorno, Rupert era seduto attorno al fuoco con gli altri suoi amici ad ascoltare le avventure di un soldato che stava viaggiando vicino al loro villaggio. E questa era la parte più interessante delle storie del soldato. La città della fortuna? Esiste davvero? Non credo. Oh, sì, esiste. Si trova sulla cima di un'alta montagna. Luccicante come il sole e con tutte le sue gigantesche torri fatte di oro puro e solido. Così tanto oro e ricchezza lì che è una seccatura per le persone di lì che non sanno cosa farsene. Quindi semplicemente fanno cose d'oro e quando si stancano di esse ne fanno di nuove. Nuove navi, nuovi ornamenti, nuovi edifici. I vecchi vengono semplicemente demoliti e gli spazzini buttano tutto nel cestino. Cosa? Cosa? Cosa? Lascia che ci mandino dell'oro. Shh! Lascialo parlare! Forza, soldato! Continua! Dici di più! Grazie. Bene. Condividere denaro o frutta richiede un cuore, ma tutto ciò che hanno sono oro e gemme sparse per la strada. Perfino la polvere per le strade è d'oro che gli spazzini gettano goffamente nei loro bidoni d'oro, tempestati delle più grandi gemme che brillano più luminose del cielo notturno. Sono sicuro che le persone di questa città trascorrono tutto il loro tempo a cantare e ballare, perché non hanno bisogno di lavorare. Oh sì, e mangiando il cibo più buono. Oh, il denaro non è mai l'unico motivo per lavorare, cantare, ballare o mangiare. Bene. La città è così? Questo è bellissimo, Jack. Questo è bellissimo, Jack. Vorrei che la città o il suo oro fossero così belli. Parlaci dell'oro. Ah, tutte le case sono fatte d'oro. I vetri delle finestre sono tutti diamanti. Le strade sono lastricate di argento e platino e i loro ciottoli sono pezzi di pietre preziose. Brillano così tanto che non c'è bisogno di accendere il fuoco nelle case o nella città stessa. Ma... come ci si arriva? Ci sono due modi. Uno è orribile. Le pietre sulla strada sono così spinose che ti rovinano i piedi e orrori inimmaginabili come enormi pozze di sabbie mobili e pendii scivolosi che cadono in grandi vallate bloccano la strada. In modo che se anche riuscissi a raggiungere la città, saresti così stanco e sfinito da non avere neanche la forza di... E la seconda via? Oh, questa ti porterà nella città della fortuna in pochi giorni, ma tu devi... Abbastanza, mostrami questa strada, io andrò nella città. Non essere troppo ansioso, almeno lascia che ti dica... Ho sentito abbastanza, soldato, e non lascerò che nulla cambi la mia decisione. Voglio andare adesso. Ehi, adesso! Non posso aspettare. bene, Rupert era così ansioso di raggiungere la città della fortuna che non gli venne nemmeno in mente di salutare i suoi amici o la sua famiglia. Ciao, Rupert! Ciao, Rupert! Ciao, Rupert! Rupert camminò con il soldato nella foresta e lì il soldato gli mostrò il resto della strada. Rupert era così eccitato di essere sulla strada che si dimenticò persino di ringraziare il soldato. Camminò per un po' e arrivò ad un fiume. Un barcaiolo dall'aspetto curioso stava aspettando sulla riva. Mi porteresti per favore dall'altra parte? Ti costerà 50 monete d'argento. Ti sembro uno che ha mai anche solo visto così tanti soldi in tutta la sua vita? Mi dispiace, niente pagamento, niente passaggio. Ti prego, signore, sto andando nella città della fortuna. Ti pagherò tutto quello che vuoi quando ritornerò. Nessuno ha mai riportato ricchezza da lì. Bene, se non hai l'argento, allora dammi un pezzo del tuo cuore. Cosa? Morirò così? Oh, chi è interessato alla carne? Intendo l'essenza del tuo cuore. Il barcaiolo tirò fuori un flauto e suonò una strana melodia. Alcune scintille di luce apparvero sul petto di Rupert ed entrarono nel flauto. Quindi Rupert salì sulla barca e fu portato sul fiume. Successivamente, Rupert scalò una montagna e quando raggiunse la cima, un altro uomo, proprio come il barcaiolo, era lì. Rupert poteva vedere le torri d'oro della città oltre il lungo e tortuoso sentiero nel bosco, ma stranamente non si sentiva desideroso come prima. Da quando il barcaiolo aveva preso alcune delle scintille del suo cuore, Rupert si sentiva pesante, come se lo spazio rimasto vuoto fosse diventato pietra. Devi pagare per passare. Non ho pezzi d'argento con me. Un pezzo del mio cuore può bastare? Oh, sì, certo. Proprio come il barcaiolo, anche quest'uomo prese un flauto. Suonò una strana melodia e scintille dorate uscirono dal petto di Rupert e andarono nel flauto. Stranamente, invece di sentirsi felice di avvicinarsi alla città della fortuna, Rupert sentì un vuoto pesante come la pietra che non riusciva a definire. Ma continuò il suo viaggio. Presto, Rupert si trovò al cancello della torre della città della fortuna e proprio come aveva descritto il soldato, il gigantesco cancello era in oro massiccio, tempestato delle più grandi gemme e diamanti che si potesse immaginare. Rupert si azzardò ad entrare, ma fu fermato da un guardiano che sembrava proprio l'uomo della barca e l'uomo delle montagne. Fermo! Devi pagare per passare! Prenderai anche tu un pezzo del mio cuore? Sì! Come prima, anche il guardiano prese il flauto e iniziò a suonare la stessa curiosa melodia con esso. Rupert si sentiva strano. La città della fortuna era proprio davanti a lui e non provava né eccitazione né gioia di entrarvi. Solo per un momento, Rupert si chiese se fosse perché stava pagando con il suo cuore e desiderò che tutto il suo cuore non venisse portato via. E grazie a questo una piccola scintilla rimase nel suo petto e non volò nel flauto. Le porte furono aperte e Rupert entrò. La città era proprio come aveva descritto il soldato, ma nulla sembrava eccitante. Rupert vide passare un uomo e sorrise. L'uomo non ricambiò il sorriso e guardò Rupert con lo sguardo vuoto. Rupert andò avanti e vide un tavolo pieno del cibo più raffinato, messo su vassoi d'oro, ma nessuno sembrava volerlo mangiare. Ahimè! Che piacere può dare il cibo a chi non conosce la fame? Rupert andò avanti e vide un sacco di strumenti musicali, fatti di oro e gemme, ma nessuno li stava suonando. Lo spazzino arrivò e li spinse in un carro d'oro. Ahimè, qual è la gioia che può dare la musica a chi non sa nulla di preoccupazioni e guai? Successivamente, Rupert vide un orafo che stava costruendo vasi d'oro. Ognuno dei suoi pezzi era esattamente uguale. Ahimè, che valore ha la creatività per qualcosa che verrà buttato nel cestino? Perché è di troppo! Rupert guardò tutte le facce senza espressione e senza cuore che lo circondavano. Non c'era gioia, nessun sorriso in questa terra. E alla fine capì che cosa significava aver pagato con il cuore. Ed era a causa di quell'unica scintilla rimasta nel suo petto che poteva provare almeno una leggera tristezza. Il popolo di quella terra, rimasto senza cuore, non poteva sentire altro che vuoto. Nonostante tutto l'oro della terra, questa gente sembrava essere diventata di pietra. Rupert non voleva vivere così. Decise di tornare a casa. Voglio andare a casa. Voglio vedere i miei amici, la mia famiglia. Nel momento in cui lo disse, tutte le scintille del suo cuore che il guardiano gli aveva preso tornarono nel suo cuore. Rupert ora era in grado di provare una piccola gioia all'idea di rivedere i suoi amici e la sua famiglia. Quando l'uomo della montagna gli restituì le scintille del suo cuore, il cuore di Rupert batté per recitazione. E anche quando il barcaiolo restituì le sue scintille, Rupert quasi corse ad incontrare i suoi amici e la sua famiglia. Madre! Padre! Mi dispiace molto! Ehi, Rupert! Figlio mio! Sei tornato! Oh, grazie al cielo, sei tornato! Ehi, sei tornato! Mi dispiace tanto per tutti voi! La mia brama di oro mi aveva accecato! Ora mi rendo conto che la ricchezza è inutile se non è accompagnata da un sentimento di gioia, e la gioia viene solo da tre cose. Quando possiamo conservare la nostra umanità e il nostro cuore, indipendentemente dal fatto che siamo ricchi. Quando abbiamo persone con cui ridere, con cui piangere. Quando siamo guidati da uno scopo di condivisione e cura. Se tutto ciò che possediamo fossero oro e ricchezza, i nostri cuori diventerebbero di pietra, proprio come i cuori degli abitanti della città della fortuna. E così Rupert tornò dalla città della fortuna da giovane più saggio. È vero o non è vero? Se la vita ti offrisse di scegliere tra le persone che ami e tutto l'oro del mondo, cosa sceglieresti? L'oro è un bene solo se accompagnato dall'amore.